Musica Maestro di Armando Torno. Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi ha in studio Giovanni Gavazzeni che, come chi ci segue sa, è il nostro critico di riferimento e quindi con lui daremo un'occhiata a quello che succederà in questo maggio o quello che sta succedendo appunto in questo inizio di stagione, chiamiamola così, estiva. Non so se possiamo già utilizzare questo aggettivo, però insomma quest'anno mi pare che con i tempi dell'estate e della primavera siamo abbastanza, ci siamo rimessi un po' al passo. Ci siamo quasi rimessi al passo, comunque insomma vedremo. E tra l'altro la primavera richiama anche alcune stagioni, ad esempio il maggio musicale fiorentino, non è l'aprile, non è il giugno. Anche sì, poi in genere il maggio in genere adesso tende a sforare, cioè ad anticipare i tempi verso la fine di aprile, cominciare in questa stagione. Ricordiamolo che è il più antico festival musicale italiano, secondo solo in Europa quello di Salisburgo. I fondatori del maggio volevano un po' imitare quello che accadeva a Salisburgo e ci sono anche riusciti, e sappiamo anche, ne parliamo, perché ha vissuto il maggio musicale fiorentino come emanazione del Teatro Comunale di Firenze, che pare diventerà Opera Firenze con questa mania di acronimizzare un po' tutto, e ha vissuto, diciamo, dei tempi molto difficili e cupi. E i critici dicono è in caduta libera. Certo, se lo paragoniamo, se guardiamo i cartelloni dei maggi negli anni 60, 70, eccetera, vedevamo una ricchezza di proposte non solo nella musica, ma anche nella prosa, nella danza, eccetera, eccetera, da rimanere a bocca aperta. Però dobbiamo tenere presente che questa stagione è una stagione di transizione che è nata, diciamo, quasi dopo l'idea di chiuderlo in maggio, di sospenderlo, perché i debiti accumulati erano enormi. Adesso pare che il vecchio teatro glorioso, Teatro Comunale, sia stato venduto, ci sarà poi la messa in opera finalmente del nuovo e quindi dovrebbe, diciamo, ripartire. Intanto il programma di questo maggio, che cominciato il 30 aprile, prevede uno dei titoli più amati, cioè il Tristano e Isotta di Richard Wagner, che già alcuni anni fa aveva proposto Zubin Mehta. Certo, ma questa del maggio musicale che lui ha illustrato è abbastanza preziosa per dar l'idea anche come funzionano un po' le istituzioni, gli enti in Italia. Eh sì, insomma, direi che alla fine deve sempre prevalere l'idea che quello che importa è l'idea del maggio, quello che rappresenta, non quello che attualmente è. Ecco. E si spera che quello che attualmente è divenga qualcos'altro. Ecco. Magari col solo Presidente che chi del deve Consiglio riformare, solo che chi deve riformare queste cose deve fare una gincana fra gli ostacoli, ostacoli sindacali, ostacoli culturali, ostacoli politici, insomma non è una cosa semplice. Il Presidente del Consiglio fiorentino potrà forse aiutare, insomma. Sì, ma Zubin Mehta, ho visto che nella presentazione ha dato luogo così a, non è solo un grande direttore d'orchestra ma anche un vaticinatore, perché salutava sempre il suo sindaco Presidente del Consiglio di Amministrazione come Presidente del Consiglio, quindi evidentemente aveva delle pizze, delle norne, per usare un termine wagneriano, che parlavano. Giovanni, lasciamo Firenze, dove andiamo? Andiamo in Laguna, Venezia, perché il Teatro La Fenice, che è uno tra i più intraprendenti e pieni di iniziative, ha lanciato le sue manifestazioni estive, che sono molteplici, e cominceranno con un importante allestimento del Rake's Progress, la carriera di un libertino di Igor Stravinsky, che è un'opera importante per Venezia, come tutti sanno, perché è stata rappresentata per la prima volta proprio al Teatro La Fenice nel 1951. E sappiamo quanto Igor Stravinsky amasse Venezia, infatti le sue ceneri riposano al cimitero Venezia, nella parte ortodossa. E stata un'esecuzione che ha fatto storia, perché il Libertino è una delle poche opere del Novecento che è rimasta in repertorio ed eseguita in tutto il mondo proprio a partire da quell'esecuzione. Fu preparata a Milano, al Teatro alla Scala, e poi le masse della Scala la portarono in trionfo a Venezia. Poi da lì ha cominciato il giro in tutto il mondo. E quindi questa di Venezia almeno rispetterà un po' le caratteristiche forse di Stravinsky o della tradizione? Questo non lo so, perché è affidata a un regista molto discusso, Damiano Micheletto, che è di casa Venezia essendo veneziano, E quindi riserverà come sempre delle sorprese, anche perché un'opera come di soggetto la carriera di un libertino, loro si direi si scatenano. In genere fanno i libertini con le opere prude, magari fanno il contrario. Ecco, lo potremmo vedere in un convento di monache o tra le educande. Non si può capitare, sa. Può capitare. Insomma, comunque Venezia è una città di libertini, non a caso è la patria di comunque Casanova, fa benissimo il teatro La Fenice a ricordare sempre non solo i grandi musicisti veneziani, ma anche le grandi opere del passato che sono state fatte ai festival di musica contemporanea di Venezia, e questo direi che è un avvenimento straordinario. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno dai microfoni di Radio 24, e questa sera abbiamo in studio Giovanni Gavazzini, critico musicale e non soltanto, uomo che segue e del quale abbiamo una eccellente fiducia, tutte le manifestazioni culturali, e poi con Radio 24 ci fa un po', diciamo così, la rassegna, le anticipazioni, è un po' il nostro spirito critico, il nostro angelo custode e anche il messaggero per molti aspetti di talune cose. Sono confuso del grande onore, come dice Butterfly. Ecco, ma dopo Venezia dove andiamo? Dopo Venezia andiamo nella patria di Giuseppe Verdi per un'iniziativa molto bella che ci sta particolarmente. Di questi giorni partirà, sì, partirà diciamo ufficialmente il 7 di giugno l'apertura del museo Renata Tebaldi a Busseto, in queste meravigliose scuderie di Villa Pallavicino dove Carlo V incontrò il Papa Farnese, che sono state messe a posto, ospitano tutta la memoria, tutto l'archivio, i documenti, si potrà visitare. Cominceranno con un concerto i virtuosi del Teatro alla Scala, poi ci sarà il 15 di giugno un concerto di musica jazz con Paolo Fresu e l'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino con Zubin Mehta. Il 30 di agosto ricorderà Mehta il fatto che ha diretto da giovane in America proprio Renata Tebaldi, quindi c'è un legame diretto insomma fra l'interprete di oggi e l'interprete del passato. Quindi la signorina Renata torna a rivivere insomma. Torna a rivivere nella sua terra, perché lei era appunto di origini parmensi di Langhirano, e soprattutto nella terra di Verdi, lei è stata una grande interprete verdiana insomma. Tra l'altro ha lavorato anche con il nonno. Ha lavorato molte volte con mio nonno, soprattutto per l'André Chénier, che era un'opera che lei amava molto, e all'epoca poi si facevano queste lunghe traversate di studio lungo l'oceano, tutti i cantanti e i direttori si trovavano in sala prove in mezzo alle onde dell'oceano e provavano le opere per Chicago, perché allora il teatro più importante degli Stati Uniti era Chicago, non era il Metropolitan. E lì erano compagnie sontuosissime, ha fatto anche il Simone Boccanegra in anni in cui è stata scoperta l'invenzione dopo del Simone, ma si faceva anche prima e anche molto certo. Bene. Allora, della signorina Renata cosa possiamo aggiungere? Della signorina Renata possiamo aggiungere che questa iniziativa mi piace molto, perché non è solo un museo, un luogo dove si va così a vedere qualcosa che non c'è più, ma è un posto dove poi si fa anche della musica e si incontra, quindi direi che la memoria della signorina Tebaldi rimane viva, ed è questo mi pare la cosa più interessante, oltre che in un luogo che ha quella particolare risonanza come è la patria di Giuseppe Verdi insomma. Difatti, come ascolto, avrei preso una delle opere che mi piace più cantate dalla Tebaldi, che è La forza del destino di Verdi. E cosa ascoltiamo? Ma non un brano solistico, bensì il meraviglioso finale nuovo, il Non imprecare, umiliati, che il padre guardiano intima al forsennato Don Alvaro, il quale effettivamente si trova in quella situazione che sappiamo, cioè ha appena ucciso il fratello della donna che ha ritrovato dopo tanti anni, e il fratello non l'ha perdonata e ha ucciso la sua donna. Quindi davanti a questa manifestazione, come dire, discutibile della provvidenza divina, non gli rimane che umiliarsi, questo gli intima il padre guardiano. Noi sappiamo che nella prima versione era ben diverso, perché Don Alvaro malediceva il mondo, Dio, e bestemmiava e si lanciava da una rupe. Ora, per la versione rifatta per il Teatro alla Scala nel 1869, Verdi ha visto di, come dire, intingere il suo pennello nell'atmosfera manzoniana che lui amava moltissimo. Quindi c'è questo finale molto più manzoniano e di una bellezza musicale particolare. Si incontrarono nella casa di Milano Manzoni e Verdi, quindi si incontrarono veramente... per i buoni uffici della grande amica di Verdi, Clarina Maffei, che era anche grande amica di Manzoni e sapeva che questo, che il suo Giuseppe adorava Manzoni, lo chiamava il santo. E quando scrive dopo l'incontro, se si potesse amare un uomo come amo Manzoni, gli bacerei le mani, insomma, mentre sappiamo che Manzoni pare non abbia mai messo piede in un teatro e la Scala l'aveva a poche centinaia di metri. Diciamo che ci andava a giocare alla roulette da giovane. Però ecco. Ci sono dei bigliettini cordialissimi di auguri di Giuseppe Verdi o di Manzoni, quindi poi... Direi che la stima, anche se non era professionale, di Manzoni, perché non si interessava, rimaneva. Ecco. Assolutamente, bisogna anche dire che nella casa di Via Morone a Milano, appunto a pochi passi dalla Scala, ci passò mezzo mondo, andò a fargli visita, d'accordo, Garibaldi, il quale non mancava mai, ma ci andò anche l'imperatore Pedro I del Brasile, che passando da Milano rese omaggio a Manzoni, quindi non soltanto... Beh, in quel senso era un autentico sovrano della morale. Insomma. Assolutamente. Beh, certamente la visita di Garibaldi provocò una specie di scompiglio tra i cattolici, perché ovviamente sembrava che Garibaldi fosse andato lì proprio per si scompigliavano facilmente in quel tempo, perché sì, quando muore Manzoni, Verdi scrive delle parole amarissime. Sappiamo che omaggio ha fatto poi Verdi musicalmente a Manzoni, la messa da Requiem, e dice: anche nel momento della morte i gesuiti e i suoi nemici non hanno mancato di morsicarlo e di umiliarlo, e gli attacchi a quell'uomo eccetera eccezionale, bla bla bla. Sì, mandandolo a trovare Garibaldi, chiaramente Garibaldi voleva dire: ecco, mi riceve Manzoni, Roma può essere tranquillamente liberata dal Papa, può diventare la capitale d'Italia. E Manzoni in fondo avallò un po' questa idea, ecco, contro tutti i cattolici che invece volevano il regno del Papa. Ma a parte queste battute, allora vorrei rivolgere anche così un pensiero molto affettuoso alla memoria di Francesco Molinari Pradelli, direttore d'orchestra bolognese, tra i più bravi secondo me della sua generazione, e grande conoscitore e collezionista di opere d'arte, soprattutto di pittura del 6-700 italiana. Ecco, era veramente una persona con un istinto artistico particolare ed era un direttore d'orchestra molto bravo che si ricorda poco. Si ricorda poco, però lo si ritrova, anche perché ha lavorato con repertori che effettivamente ne rendono immortale la memoria, possiamo dire questo. Bene, ma... E qui adesso dobbiamo passare a un altro omaggio alla memoria. Dopo questo omaggio alla signorina Renata, so che abbiamo un centenario questa sera, Giovanni. Abbiamo un centenario importante, perché in Italia e soprattutto a Milano è ancora vivo il ricordo del maestro Carlo Maria Giulini, nato appunto nel 1914, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Molte case discografiche hanno pubblicato integrali giuliniane, dove c'è Gramophone, Amy Warner, eccetera, eccetera, e ultima, ma non meno importante, la Sony, che ha dedicato un cofanetto tutto alle ultime incisioni di Carlo Maria Giulini, soprattutto con la Filarmonica della Scala, ma anche con altre grandi orchestre a Berlino, a Monaco di Baviera e ad Amsterdam. Direi che c'è un po' tutto il repertorio che Giulini amava di più: le sinfonie di Beethoven, la prediletta sinfonia in re di Franck, le ultime tre di Dvorak, eccetera eccetera. Io devo dire che secondo me gli anni migliori di Giulini sono quelli con la Filarmonia di Londra, quando faceva certi Mozart con compagnie bellissime, oppure si dedicava alle sinfonie di Rossini, al Requiem di Cherubini, eccetera. Però anche in questa estrema maturità si possono ritrovare alcune delle linee guida per questo interprete molto particolare. Intanto prediligeva così un contatto molto mistico con la musica. I suoi avversari, ed erano tanti, dicevano che insomma i tempi di Giulini erano molto larghi. È vero, i tempi di Giulini erano molto larghi. Questo non esime dall'ammirarne la probità dell'uomo. Ecco, io lo ricordo ancora quando non era più in carriera, passeggiare con grande dignità per le strade di Milano. Corso Garibaldi in particolare. Sì, lui frequentava anche le zone intorno alla Scala, dove era stato per tanti anni protagonista. Poi dopo la carriera lo aveva portato molto in Inghilterra e in America, dove era particolarmente amato, a Londra, a Los Angeles, eccetera, eccetera. Aveva avuto anche, insomma, delle... come dire, dei posti importanti, ed è sempre stato stimato perché era una persona per bene, un gentiluomo, una persona garbata, educata, che aveva imparato ad amare la musica, come sapete, cominciando a suonare nella leggendaria Augusteo di Roma, quindi avendo suonato sotto delle bacchette illustrissime, Bruno Walter, Nikisch, bacchette leggendarie che lo avevano così stimolato alla direzione d'orchestra. Certo, e è rimasto solo il tempo per i saluti dopo questa meraviglia di Schubert. Salutiamo e ringraziamo il maestro Carlo Maria Giulini e tutti gli interpreti, il coro e l'orchestra della Radio di Monaco. Io ringrazio voi ascoltatori e ringrazio anche Giovanni Gavazzini per essere stato con noi questa sera, ma ovviamente gli diamo appuntamento presto, prestissimo, perché di lui abbiamo bisogno continuamente per giudicare, per vedere, per scrutare meglio quello che succede nel mondo della musica. A risentirci la prossima domenica, sempre alle 21. Un cordiale saluto da Armando Torno e da Giovanni Gavazzini.